La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie come sempre per l'ascolto in diretto in podcast della versione di Oscar e buon mercoledì 24 maggio. Allora, gli ricordo l'indirizzo come sempre, la versione di Oscar @radio24.it. Questa trasmissione nasce perché un paio di voi, avendo letto un articolo che ho postato qualche giorno fa, il cui argomento era il problema numero uno che è assente dall'agenda pubblica italiana, è la produttività, e nasceva a commento, oimè, dell'ultima release di dati dell'euroarea di crescita attesa per il 2017. Noi siamo in fondo alla lista, poveri noi, insieme alla Grecia, mentre Mario Draghi qualche giorno fa ha commentato dicendo, con un tono questa volta relativa ma insomma apprezzabile sicurezza, la crisi ormai è alle nostre spalle perché la ripresa si consolida nella pluralità, nella maggioranza dei paesi e nei diversi settori. E con quelle parole Mario Draghi ci ha ufficialmente oramai introdotto verso l'uscita dalle politiche monetarie non ortodosse, e il mio commento era, che è uscito sul Messaggero e sul Mattino, il problema numero uno non è tanto, come molti insistono a dire, l'euro, il cambio, la finanza pubblica, il deficit e il debito, che pure è elevatissimo, ma è il fatto che noi da 20 anni abbiamo un andamento di produttività che è stagnante, anzi negativo. E invitavo tutti quanti, cosa che continuo a fare, ad andare al report annuale 2017 dell'Istat, che è uscito qualche giorno fa. Trovate un esame dettagliato degli andamenti di produttività italiana, sia del lavoro che di diversi input di produzione, che quella multifattoriale, è stata la pagina 41 e 46 del rapporto annuale 2017 dell'Istat, e vedrete che c'è un grafico che parla da solo, dice tutto quello che c'è da dire, oimè, come fotografia, perché è un dato che rappresenta l'andamento del PIL pro capite e della produttività multifattoriale per i paesi OCSE negli anni 2000-2014, in ascissa, in ordinata, PIL pro capite e produttività multifattoriale, e vedrete che in quel grafico, che sta a pagina 42, l'Italia è l'unico, sottolineo, tre volte, paese OCSE che sta nel quadrante in basso a sinistra, quello dei paesi perduti, perché sia per PIL pro capite sia per produttività multifattoriale il segno è meno negli anni 2000-2014 come cumulato. Cioè noi abbiamo meno 6% rotti ancora a oggi, al 2015, un anno fa, di PIL pro capite rispetto al 2000, e meno 7% cumulato di produttività multifattoriale. La stragrande maggioranza dei paesi OCSE sta invece nel quadrante in alto a destra, concentrata in un'area nella quale tra 2000 e 2014 il PIL pro capite è aumentato complessivamente, quindi attraversando gli anni di crisi. Al 2015 era aumentato rispetto al 2000 più o meno del +6, +8%. A oggi noi siamo 7 punti ancora di PIL sotto il massimo pre-crisi 2007, la Germania ha recuperato 6 punti di PIL rispetto ad allora, quindi guardate il divario, sono 13 punti tra noi e loro. Il più dei paesi OCSE stava appunto in quel quadrante, e tra 2000 e 2014 PIL pro capite tra il +6 e +8%, produttività multifattoriale tra +12 e +15% in 14 anni, mentre noi meno 7. Allora, parliamo di tutto questo traendo spunto da un bellissimo librino che io vi prego di leggere, perché non sarà grande fatica, ma è scritto in maniera divulgativa per incuriosirvi, però è su questa cosa che va a battere. Si intitola, editore Bompiani, La sindrome di Eustachio, storia italiana delle scoperte dimenticate. E l'autore è qui con noi in studio, e io lo ringrazio molto, lo seguo da anni in quello che fa, è un collega, un giornalista del Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera è Innovation Editor, quindi segue in particolare le novità tecnologiche, le innovazioni, gli investimenti nelle nuove imprese knowledge intensive nel nostro paese, si occupa specificamente di questo, ed è Massimo Sideri. Grazie Oscar e buon pomeriggio ai radioascoltatori. Allora, in realtà questo libro, ripeto, ha una parte che serve a condurre per mano il lettore, perché tu lo seduci ricordando i tantissimi casi in cui gli italiani sono stati nei secoli alla vetta, alla testa delle innovazioni, con un mucchio di innovazioni importantissime, e noi ce ne siamo dimenticati. Ma questa sindrome di Eustachio che cos'è? Sindrome di Eustachio mi è venuta in mente per raccontare questa dimenticanza cronica che abbiamo avuto nei confronti della nostra storia, ma che purtroppo, come giustamente tu sottolineavi, continuiamo ad avere. Mi è venuto in mente il personaggio di Eustachio perché in qualche maniera ha avuto un destino ingrato. Tutti noi conosciamo le trombe di Eustachio, nessuno conosce la storia di Bartolomeo Eustachio, che è un professore dell'Università di Padova, grandissimo anatomista, che ha avuto una vita incredibile, interessantissima. Peccato che dal momento in cui ha scoperto queste trombe di Eustachio tutti si sono dimenticati della sua vita. E purtroppo è un destino che si è ripetuto nella storia, si è ripetuto dal 1400 a oggi. Io ho raccolto storie incredibili, la matita, il pianoforte, l'aliscafo, ma non volevo scrivere soltanto un amarcord storico, quindi ho ricordato anche gli esempi attuali, le cellule staminali ematopoietiche che sono alla base dell'industria miliardaria del biotech, sono state avviate grazie a un esperimento fatto 25 anni fa da Claudio Bordignon qui a Milano al San Raffaele. E noi abbiamo questa incredibile capacità di ogni tanto di recuperare qualche pezzetto della nostra storia, ma poi ce ne dimentichiamo subito, siamo quasi ingrati nei confronti della nostra storia, e questo è molto negativo perché ci dimentichiamo che siamo stati dei grandissimi innovatori, continuiamo ad avere delle idee eccezionali a livello scientifico, non sappiamo trasferirle in azienda, no, che è un po' il tema. L'idea è un pochino che gli italiani fossero dei geni ai tempi del Rinascimento fino al 600 con Galilei, poi nel declino italiano in realtà l'innovazione si è spostata altrove, sulle due rive dell'Atlantico, nel nord Europa, sulle due rive dell'Atlantico. In realtà anche questa non è vera, perché dal transistor al microprocessore sempre grandissimi italiani del tutto dimenticati sono stati i veri artefici dei passi avanti. Esattamente, il personal computer, la storia dell'Olivetti forse in qualche angolo del nostro cervello rimane, ma forse ci siamo dimenticati le storie, bisogna andare a fondo nei confronti di queste storie, ci siamo dimenticati la vita di Mario Chu, che era questo personaggio incredibile, questo cinese italiano, figlio dell'ambasciatore cinese a Roma, nato a Roma e cresciuto a Roma, era un genio incredibile, temuto dagli Stati Uniti e dall'IBM, tant'è che lo stesso Carlo De Benedetti a un certo punto, visto che Mario Chu è scomparso in un incidente autostradale sulla Milano-Torino mai del tutto chiarito, lo stesso Carlo De Benedetti ha ricordato che all'interno dell'Olivetti si pensava fosse stata la CIA a farlo fuori, tanto era il rispetto nei confronti di questo personaggio. Poi giustamente tu hai ricordato il chip, Federico Faggin, Vicentino, che è un cervello in fuga perché chiaramente poi l'abbiamo perso e oggi vive a San Francisco. Sappiamo l'MP3 è stata un'altra grande invenzione, innovazione italiana. Ecco, anche se questo poi, secondo me non lo sa nessuno davvero. Allora, l'MP3 è interessante perché nasce da un progetto europeo guidato dall'Italia e in realtà nasceva con scopi totalmente differenti, quindi in qualche maniera non si sono resi conto di cosa avevano tra le mani, e poi è diventata invece la grande innovazione che ha permesso la vendita della musica a pagamento, la diffusione della musica, quindi anche questa una storia incredibile che tendiamo a dimenticare. Voglio raccontare un'altra storia recente: Mark Yorry, grandissimo matematico che insegnava a Stanford, e tra i suoi allievi c'erano due personaggi destinati a fare la storia, Sergey Brin e Larry Page, perché seguivano le sue lezioni sugli algoritmi. A un certo punto questi due ragazzi hanno detto: questo algoritmo può essere interessante, è alla base di Google, non è fantascienza italica. È stato riconosciuto da Brin e Page, che seguivano le lezioni di Mark Yorry, e che quell'algoritmo è stato alla base proprio della grande innovazione. Quindi ritorniamo sempre da capo, noi siamo grandissimi innovatori scientifici, lo siamo ancora, abbiamo una certa dose di oscurantismo nella nostra oscurantismo scientifico nella nostra cultura. Ci manca quell'elemento di capacità di trasformare l'idea scientifica, la ricerca scientifica in impresa, che è il tema. Ecco, veniamo appunto ai nostri giorni. Se andiamo a vedere i dati, tutti lamentano, siamo indietro nei ranking comparati di quanto spendiamo per la ricerca e sviluppo. Verissimo, verissimo. Però se noi andiamo a vedere l'eccellenza della posizione nei ranking internazionali, molti giorni scientifici di ricerca avanzata, in alcuni settori quantomeno, dalle nanotecnologie soprattutto alle life sciences, biotech e così via, e noi scopriamo che l'intensità, il numero di citazioni per milioni di abitanti eccetera eccetera ci pone in una collocazione molto più alta di quello che uno dovrebbe desumere da quanto poco spendiamo sia nel privato che nel pubblico. Però la tragedia è che poi, come hai ricordato per il più dei nomi degli avanzamenti più recenti, il trasferimento tecnologico al settore produttivo non c'è. Neanche nelle eccellenze universitarie, che pure sono concentrate e diffuse nel nostro paese. Le università stanno tentando di attrezzarsi, però sappiamo qual è la realtà. Spesso l'ufficio del trasferimento tecnologico è fatto da una persona all'interno dell'università che dovrebbe seguire tutte le idee di tutti i ragazzi, di tutti i ricercatori, di tutti i dottorandi. Chiaramente è impossibile. Quindi la cosa deludente, in qualche maniera, tu ricordavi prima il tema della produttività, è che conosciamo il problema. Il tema della produttività lo conosciamo, ne parliamo da 20 anni. Il tema del trasferimento tecnologico riempie i convegni, eppure non riusciamo a fare questo salto. Ecco, ma il problema è, guardando in termini comparati, della come funziona e come è organizzata l'università, che ha meno imprese dentro di quanto non capita in altri modelli, il che non significa che debba essere privata, perché per esempio in California sono pubbliche, però c'hanno le imprese dentro, idem in Germania, e c'hanno le imprese dentro, come il 3/4 dei corsi universitari, sia del 3+2, sono professionalizzanti. Quindi è un problema che riguarda l'università, un po' troppo estranea all'impresa, o è un problema che riguarda l'impresa, o riguarda tutti e due? Credo che riguardi ambedue, perché poi in qualche maniera l'università vede un po' come, soprattutto l'università pubblica, vede un po' come il demonio d'impresa, perché in qualche maniera rischia di inquinare quella che è la ricerca pura. In realtà sappiamo benissimo che la ricerca di base ormai l'università non la fa più, non la fanno più i centri di ricerca, non la fanno più neanche i famosi Bell Labs negli Stati Uniti, quindi la ricerca di base in realtà è quasi ormai un figlio senza padre, senza madre. Credo che sia un tema culturale. Questi due mondi dovrebbero avvicinarsi, dovrebbero parlare, continuano a dirlo nei convegni, ma poi non si incontrano evidentemente mai in privato per cercare una soluzione. Facciamo un mucchio, lo dicevamo prima all'inizio della trasmissione, un mucchio anche del sistema Confindustria, fa un mucchio di convegni sulle start-up. Noi in Asso Lombarda, cioè la più grande territoriale di Confindustria, in questi 4 anni abbiamo preso come uno degli strumenti su cui fare comparazione continua tra questa, che è la più grande territoriale, col maggior numero di multinazionali, col maggior numero di imprese sopra il miliardo di fatturato, e ci siamo detti, invece di fare convegni, andiamo a vedere nel tempo, in termini comparati, quante start-up knowledge intensive ci sono nelle 4 aree nostre dirette competitrici in Europa. Vediamo nel tempo quante di quelle crescono rispetto alle nostre, di quanto crescono, se acquisiscono dopo il terzo o quarto anno altre imprese o ne vengono acquisite, cioè acquisiscono una scala dimensionale maggiore, e l'effetto di questa comparazione è abbastanza, nella territoriale, la parte più avanzata d'Italia, più grande d'Italia, ohimè, è abbastanza sconfortante. Allora, qui il problema però riguarda strumenti pubblici o privati. Ma in qualche maniera sicuramente riguarda i finanziamenti. Sappiamo che la dimensione del finanziamento è molto scarsa, parliamo di 150 milioni l'anno, laddove tutti gli altri paesi investono miliardi, sia a livello pubblico che a livello privato. Questa base così scarsa fa sì che stiamo crescendo dei lillipuziani, stiamo alimentando un po' il mondo delle start-up, anche perché ce lo possiamo dire, c'è una disoccupazione giovanile molto alta, quindi in qualche maniera spingere questi giovani disoccupati verso le start-up sembra quasi essere una soluzione temporanea del problema. Peccato che poi non riusciamo ad alimentare la crescita di queste aziende, e quindi il problema non è tanto la mortalità diffusa, perché sappiamo che fa parte del mondo delle start-up, è il fatto che non riusciamo a creare dei campioni nazionali, cosa che hanno fatto tutti, il famoso unicorno, la famosa azienda che il cui valore è almeno superiore al miliardo, guarda caso c'è in tutti i paesi, c'è anche in paesi, lo ricordo, come la Polonia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, qui non c'è. Allora signori, abbiamo un problema evidentemente. Un minuto di traffico, poi torniamo con Massimo Sideri a parlare del suo libro La sindrome di Eustachio, Bompiani Editori, storia italiana delle scoperte dimenticate, ma serve per parlare dell'innovazione della produttività italiana. La versione di Oscar. Ed eccoci tornati, cari ascoltatori di Radio 24. Stiamo parlando di produttività e innovazione. Lo spunto è un bel libro che vi consiglio di leggere. Il titolo è La sindrome di Eustachio, Bompiani Editori, storia italiana delle scoperte dimenticate. L'autore qui con noi in studio è Massimo Sideri, Corriere della Sera, e l'innovation editor del Corriere della Sera. Ed eravamo arrivati dopo lo spunto di questo libro, che serve a solleticarvi con il ricordo dei tantissimi innovatori e straordinari scopritori che nella storia italiana ci sono, ma le abbiamo dimenticate nei secoli alle spalle, ma anche negli ultimi decenni e sulle innovazioni più recenti delle tecnologie. E, però il problema è quello un po' di capire come si fa a schiodarla questa innovazione italiana, di cui si parla molto, però se ne fa poco. Aveva citato Massimo Sideri prima dell'interruzione il fatto che se andiamo a vedere il totale dei fondi di venture capital, quanto investono in media negli ultimi anni nel nostro paese, stiamo parlando di 150 milioni, paragonato, ripeto, ai 600 milioni che abbiamo dato al prestito ponte dell'Italia, fallita sotto i privati come era fallita sotto il pubblico. Avete un'idea delle priorità nel nostro paese. Ma posso aggiungere, Massimo, quanto i grandi istituti di credito, sto parlando di quelli sani, insomma Intesa e dopo l'ultimo aumento di capitale anche Unicredit, quelli che hanno polmoni finanziari e non hanno grandi problemi di costo del funding, quanto anche loro hanno qualche responsabilità in questa asfitticità di risorse? Allora, in qualche maniera le banche italiane tendono a non entrare nel tema delle start-up, perché lo sappiamo che il giovane imprenditore non vuole il denaro a credito, non vuole il denaro in prestito, perché il grado di rischio, di rischiosità di una startup è tale che normalmente bisogna partecipare a questo rischio. Quindi il modello funziona con degli investimenti diretti: ti prendi una quota dell'azienda e mi dai del denaro. Laddove l'azienda dovesse fallire, tu hai perso la tua quota, hai perso il tuo denaro. Le banche hanno tentato di fare dei fondi di venture capital, ma credo che non faccia proprio parte della loro genetica, cioè, perché in qualche maniera le banche tendono a diluire il rischio, a diffondere il rischio, mentre questo è un lavoro specializzato, è un lavoro per professionisti che devono quasi amare il rischio, devono amare il rischio, perché tu devi puntare a fare la grande azienda, non necessariamente Google, Facebook, ma comunque devi puntare a fare una grande azienda che ti permetta di ritornare dal fallimento di tutte le altre. Quindi probabilmente il settore bancario non è culturalmente pronto a finanziare questa nuova industria che non stiamo alimentando in Italia. Se uno va a vedere che cosa Israele ha fatto negli ultimi 20 anni, diventando un paese leader per capacità di generazione di imprese in settori tecnologicamente avanzatissimi, quante ne ha quotate non solo lì ma poi su Nasdaq negli Stati Uniti e così via, ha l'idea di un paese che capisce che deve stare con la marcia sempre innestata su questo. Da che cosa dipende secondo te? La Silicon Valley è il caso più citato in assoluto. Israele investe circa il 4% del proprio PIL in ricerca e sviluppo, e quindi anche in questo mondo. Dipende da un cambio culturale che è avvenuto a livello centrale, perché è evidente che lì il governo ha messo tutti gli attori intorno a un tavolo e ha detto: signori, noi siamo un piccolo paese, peraltro erano un paese agricolo, adesso ormai Israele viene citato appunto come valle delle start-up miliardarie che vengono vendute al Nasdaq. Sino a 20-25 anni fa era un paese agricolo sostanzialmente, quindi ha messo tutti gli attori intorno al tavolo e ha detto: abbiamo una popolazione anche abbastanza ridotta, quindi non abbiamo dei consumatori che potranno acquistare le nostre risorse, i nostri prodotti, i nostri servizi, dobbiamo puntare molto in alto. È stato proprio costruito a tavolino il sistema per alimentare delle start-up, delle aziende che dovessero essere vendute sin dal giorno 1 al Nasdaq. Questo è un po' il tema dell'Italia, perché le start-up nascono in realtà spessissimo con il panorama nazionale, quindi tentiamo di vedere se funziona in Italia, poi passiamo a livello europeo, poi eventualmente passiamo a livello globale e mondiale. È chiaro che è un mondo che non funziona così. Io temo, ma questa è la mia opinione, perché sono un po' liberista e mercatista di troppo, io temo che in qualche misura conti anche l'avversione molto forte, che in termini comparati diventa fortissima nei paesi OCSE, il nostro paese rispetto a loro, che l'Italia continua a manifestare per la sua concezione del lavoro tutta la vita allo stesso posto, delle politiche del lavoro, meglio quelle passive, il sostegno a chi perde il reddito, di quelle attive, meno durata del segno a chi l'ha perso, più rapido reinserimento attraverso formazione, ma con una intermediazione efficiente, non quella degli uffici provinciali del lavoro. Io credo che per assommare tutte queste cose, se andiamo a vedere tutte le nuove forme che attraverso le piattaforme digitali, la tecnologia, disintermediano la vecchia maniera di fare l'incrocio tra domanda e offerta, in Italia provocano proteste, muri, opposizioni che di solito vincono, perché questo si vede in tutte le offerte di servizi, si possa dall'home restaurant Airbnb, trasporti punto punto non di linea e così via. Questa è la storia italiana di questi anni. Secondo te il fattore anticompetitivo è un freno oppure no di questa innovazione bassa? Ma ne abbiamo parlato già diverse volte proprio qui nella tua trasmissione, sono d'accordo con te. Io mi definisco un socialdemocratico prestato all'iberismo, perché anche se parto da elementi culturali che mi portano a pensare che lo Stato debba avere un ruolo importante, in realtà nell'Italia di oggi dobbiamo essere liberisti, perché è evidente che questo è l'ingrediente che ci manca, la voglia di competere, la voglia di comprendere il cambiamento. Lo vediamo, abbiamo parlato proprio in questa trasmissione dei problemi di Uber e dei tassisti. Non è un fatto di il problema non è tanto difendere Uber, difendere l'innovazione, il problema è continuare a pensare che protestando per strada possiamo risolvere i nostri problemi. Qualche giorno fa sui giornali hanno ripreso un esempio di capacità da parte dei privati, stiamo parlando di una fondazione arminese che si incardina negli Stati Uniti per via di una vicenda terribile che avevano avuto di una malattia della loro famiglia anni fa, e la fondazione arminese a quel punto si mette di buona lena a offrire dei grants per italiani che stanno in quel sistema di formazione americano, per dire creiamo l'occasione con fior di finanziamenti per farvi credere all'opportunità di reinnestarvi in Italia. I programmi pubblici di questi anni hanno fatto un effetto, secondo me, abbastanza, non dico di buco dell'acqua, ma quasi. Perché, secondo te? Quella che raccontavi tu è una storia bellissima, che nasce da, appunto, da questa tragedia, dalla perdita da parte del conte Auletta della moglie, che decide di trasformare questo dolore in un grande momento di cambiamento, un momento di fiducia nei confronti della scienza e dei giovani italiani. È riuscita negli anni a riportare 23 grandi ricercatori in Italia, a convincere anche le strutture, perché poi il finanziamento non basta, chiaramente vengono dati dei grant significativi, certo. Poi bisogna convincerli ad entrare nel laboratorio già preesistente dell'università o del centro di ricerca. Quindi è stato un successo incredibile, perché su 23 persone, ricordavo in questo articolo uscito nel fine settimana, soltanto una persona ha lasciato l'Italia alla fine del progetto. È evidente che c'è un problema culturale qui, non è soltanto un problema di finanziamenti. Cari ascoltatori che credete nello Stato, io prenderei quella roba lì che già esiste e funziona, fossi ministro, e direi diamo una mano a chi già funziona invece di inventarcene di nostre. Questo credo che si tratti di fare così, le migliori pratiche esistono, tanto vale per seguire quelle strade, non inventarsi bande che poi, ohimè, non funzionano, come qua abbiamo fatto qua, gli abbiamo dato l'incentivo fiscale a tempo che poi spariva. Che pensate, che la gente è stupida? Si fa i conti, no? Allora, leggete il libro di Massimo Sideri, La sindrome di Eustachio, storia italiana delle scoperte dimenticate, Bompiani. Grazie a Massimo Sideri e a quello che fai sul Corriere della Sera nella vita professionale, e grazie anche per aver accettato di parlare con noi di questo tema oggi. Grazie a voi.